anni dopo che si stringeva da lavoro e mura. A capo mi riceve gamba e tutte cose ma paura. Io va camminando in dopo che guarda chi mi sta guardando. Chi l'homme è merda l'andicer. Stuvica e non m'ha paura. Non poche mestruazioni celebrale, sola meglio cura. Te piglia per cravatte Valentina e te porta a camma nanna. Si non m'è merda andicer. Li trovi ovunque, al lavoro, a scuola, in pizzeria, allo stadio, in vacanza. Se impari a riconoscerli, vedrai in ogni posto e saprai come ignorarli. Super attillati, confezionati, super abbigliati, firmati un pacco regalo per il parentato, giovani promesse, ideali di mercato.